la scuola dello Tres Mundos, come si diceva, costituito da García Márquez e Fernando Vidri, e anche alla scuola di cinema a Barcellona. Lei sarà con noi, che arriverà domani sera, e sarà con noi per la proiezione e il dibattito che ne segue. L'altro film invece si chiama Palestine Stolen Images, e cioè le immagini rubate della Palestina, è di un cineasta argentino che ha vissuto anche a Cuba, dove ha individuato nell'archivio dell'ICAI delle riprese fatte negli anni 70 da Jorge Giannoni e Jorge Denti, due cineasti durante la dittatura in Argentina e in esilio in Cuba, coprodotto con l'ICAI, e lui ha continuato a girare, insomma, per 7-8 anni, soprattutto a Gaza, ma anche in altri posti della Palestina, e questo film dà una testimonianza sul what they call the ongoing Nakba, cioè la Nakba, la catastrofe palestinese cominciata al 48, per la verità anche già prima, 47-48, fino a oggi. Cioè soprattutto la drammatica situazione di Gaza, che è, come tutti sappiamo, una prigione a cielo aperto, ma il senso di questa iniziativa, che si chiama internazionalismo, è la tenerezza dei popoli. Questa è una bellissima frase del Che Guevara, che poi, tra l'altro, cosa che è poco saputo, è andato nel 59 in Palestina, a Gaza, infatti, a rendersi conto della situazione in Palestina. Cioè lui ha fatto questa bellissima frase: la solidarietà internazionale è la tenura de los pueblos, e la tenerezza tra i popoli. E negli anni 60-70 era un valore prioritario per tutti quelli che credevano nella autodeterminazione dei popoli e appoggiavano le lotte anticoloniali, e quindi anche quelli contro le annessioni imperialistiche e coloniali, appunto. Un tentativo di far ricordare una giovane generazione di questi tempi a poco memoria audiovisiva, diciamo, dei lavori che sono stati fatti ora, e che hanno un messaggio comune, che la solidarietà non ha frontiere, non ha muri, è un momento unificante tra tutti quelli che credano nella libertà dei popoli. È ricominciata da poco la rassegna, volevo chiederti se ha una cadenza irregolare adesso. Ma per 6 anni abbiamo fatto il Cineforum mensile, ogni primo giovedì un film palestinese, appunto, però per varie ragioni, anche quelli di tempo, perché sono impegnato in un enorme progetto molto intensivo di lavoro e di tempo a digitalizzare tutto il mio archivio cinematografico, a preparare il Cineforum, comporta insomma anche un investimento di tempo, certamente. Quindi andiamo avanti a fare dei eventi, come abbiamo fatto questo un mese fa, il 15 maggio, un focus su Gerusalemme, cioè proprio il giorno che l'ambasciata americana ha spostato, gli americani hanno spostato la loro ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, come segnale di annessione, ulteriore annessione dei territori occupati palestinesi. Ma andremo avanti, sì, a fare dei film, sì, palestinesi, con un focus e un approfondimento su vari temi, come fra un mese, se tutto va bene, faremo un altro Cineforum sul muro,

Apollo 11, Nuova Aquila, Eden e Minion. A Milano esce anche in tre sale, Beltrade, l'Antel Mexico, a Napoli al Modernissimo, a Bologna al Lumière. Insomma, devo dire che c'è una bella richiesta, forse perché dopo Berlino si è parlato molto di questo film. Dove si può vedere in rete per tutte le sale? C'è una pagina che stanno aggiornando in tempo reale, che continuano ad arrivare richieste di programmazione, che è selfie-film, perché ovviamente insomma la parola selfie si presta a 10 miliardi di link, selfie-film, oppure quella mia, Agostino Ferrente, dovrei pubblicare adesso appena me la danno la lista delle sale. Però ripeto, andando in rete si trovano, è un documentario, non ha attori famosi, non ha budget di promozione alti, come io dico sempre. Una Ferrari costa centinaia di migliaia di euro, una Panda qualche migliaio di euro, un motorino scherzato qualche centinaia di euro. Paghi quello che compri, con un film paghi quel biglietto che è uguale, sia se il film è costato milioni di euro e c'ha altrettanto investito nella promozione, sia se è un documentario quasi autoprodotto. Quindi insomma, chiediamo ai nostri spettatori di sostenerci, di vedere il film, se gli è piaciuto di consigliarlo agli amici, se non gli è piaciuto di consigliarlo ai nemici, così comunque qualcuno lo va a vedere. Vabbè, la vostra radio è sempre, è il conduttore di questa trasmissione, Federico è sempre un alleato e gli siamo grati. Il regista Agostino Ferrente sul suo documentario Selfie a Roma, Nuovo Cinema Aquila, proiezione incontro con l'autore giovedì 6 giugno 2019. Con il regista Luigi Dalife per presentare il progetto di film documentario The Milky Way, venerdì 7 giugno 2019 a Brescia, al Circolo del Monco. Luigi, ben trovato. Ciao, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ci racconti un po' di questo progetto? Sì, assolutamente, appunto, The Milky Way, il nuovo progetto di film documentario a cui stiamo lavorando insieme a SMK Video Factory, un progetto che abbiamo iniziato verso la fine dello scorso anno e insomma andando in maniera abbastanza determinata e decisa. A gennaio abbiamo iniziato le riprese del film, che abbiamo terminato da poco, l'abbiamo terminato a metà maggio, ed ora il film per l'appunto è passato alla fase di post-produzione, che sarà una fase altrettanto, diciamo, densa di cose da fare, anche difficile, perché insomma ci comporrà, oltre chiaramente che del montaggio, ci comporrà anche di una parte abbastanza consistente e importante di animazione tradizionale a cura di Emanuele Giacopetti, una vera sfida, se vogliamo, in termini narrativi, tecnici e produttivi, ma una sfida, una delle tante sfide che insomma stiamo affrontando per realizzare questo film documentario, che è un film documentario che vuole raccontare quella che è una storia delle migrazioni sul confine occidentale tra Italia e Francia, quindi diciamo sul confine dell'Alta Valsusa, il confine alpino tra Italia e Francia, una storia che appunto negli ultimi anni è tornata alla ribalta e che è stata definita dai media mainstream come una nuova rotta della migrazione, ma che in realtà appunto di nuovo non ha assolutamente nulla, perché è una rotta, quella insomma valsusina, dell'Alta Valsusa, che è da migliaia di anni percorsa da rotte di immigrazione e di migrazioni, e molto più diciamo recentemente, negli ultimi 200 anni sono stati centinaia di migliaia gli italiani che clandestinamente hanno provato ad attraversare quegli stessi valichi alpini su cui oggi, diciamo da almeno 2-3 anni a questa parte, vengono percorsi quei sentieri dai migranti di origine africana. E quindi insomma la volontà di provare a raccontare quello che succede, però assolutamente al di fuori da quelle che sono state le logiche della narrazione mainstream, che poco ha contestualizzato quello che avveniva, sia in termini di dove questa migrazione si stava dando, quindi su quel territorio, sia naturalmente rispetto alle cause che portano le persone a dover provare strade sempre più pericolose e difficili per tentare appunto di muoversi liberamente. Come era partito il progetto? Il progetto sostanzialmente è iniziato nel, diciamo, verso la fine del 2017, quando per l'appunto è tornato un po' alla ribalta quello che stava accadendo nell'Alta Valsusa, in particolare dopo la chiusura, insomma, delle stazioni, delle sale di aspetto delle stazioni di Bardonecchia e di Ulx nel novembre del 2017, ho pensato fosse importante provare ad andare su quel territorio e capire davvero quello che stava succedendo. Da lì, appunto, ho iniziato ad andare sul posto, a documentare quanto avveniva, a studiare, a fare anche un lavoro di ricerca e di analisi, quelle settimane a cavallo tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018, poi è nato un docu-reportage che si chiama Il Confine Occidentale, che se vogliamo è una sorta di spin-off di Mitty Way e che, diciamo, se vogliamo è già un racconto a sé, perché racconta di fatto quello che avveniva nell'inverno tra il 2017 e il 2018, un inverno particolarmente nevoso in cui la rotta, diciamo, tra virgolette, percorsa dei migranti era quella che da Bardonecchia saliva sul Colle della Scala e poi raggiungeva Nevasce e Brienson, quindi una rotta già, se vogliamo, diversa rispetto a quella di oggi, che invece sappiamo essersi spostata sul confine tra Clavière e Monginevro. Da qui siamo partiti e successivamente il lavoro che abbiamo fatto, per l'appunto, è stato anche un lavoro di ricerca storico, antropologico, su quello che è questo territorio, che, appunto, come dicevo prima, è un territorio da sempre di frontiera, ma in realtà è anche e soprattutto un territorio di osmosi, un laboratorio di convivenza, dove, insomma, diverse culture storicamente si sono incontrate e soprattutto dove, diciamo, ci sono delle dinamiche molto importanti e molto precise che si danno su quel territorio, che, per l'appunto, essendo un territorio di montagna, va, se vogliamo, a mettere in atto da parte degli abitanti che lì vivono, se vogliamo, quelle stesse dinamiche che possiamo magari riscontrare in altri territori di frontiera. A me viene in mente un parallelo che può sembrare lontano, ma che è assolutamente calzante, che è quello con il mare. Questo perché moltissimi degli abitanti che abbiamo intervistato, che abbiamo incontrato, ci hanno più volte ribadito che, così come in mare, anche in montagna nessuno si lascia da solo. Proprio da qui siamo partiti, quindi, dal territorio, dal racconto del territorio, per provare naturalmente poi ad attualizzare quello che succede e a denunciarlo in tutta la sua gravità. Mm-hmm. Quali saranno le tappe di questo lavoro? Ma allora, diciamo, come tappe, per l'appunto, abbiamo terminato a maggio la fase di riprese, come dicevo, ora parte una lunga fase di post-produzione, di montaggio e dell'animazione. Quello che abbiamo fatto sin dall'inizio del progetto, che stiamo continuando a fare sostanzialmente, è anche avviare una fase di crowdfunding, o come piace definirla a noi, una fase di coproduzione popolare. Questo perché crediamo sia assolutamente necessario provare a trovare nuove forme di sostenibilità rispetto a questi lavori, che vogliono essere dei film davvero indipendenti, che vogliono, appunto, che crediamo, appunto, sia oltre necessario provare a raccontare queste storie, sia anche necessario farlo, insomma, con tempi e con modalità che sono più propriamente nostre. Per questo nella prima fase di crowdfunding abbiamo raccolto poco più di 8.000 euro che sono stati assolutamente fondamentali, perché di fatto ci hanno permesso poi di completare quella che è stata la fase di riprese, di sostenere le spese vive del set. Naturalmente non è questa fase non è terminata, perché, insomma, abbiamo stimato più o meno il costo totale del film in circa 50.000 euro, quindi, insomma, è la fase, diciamo, di coproduzione popolare continuerà fino alla realizzazione poi del finale del film, ed è qualcosa che stiamo continuando a fare sia online, con, appunto, una prima fase di campagna su Produzioni dal Basso, ma che stiamo continuando a fare e continueremo a fare nei prossimi mesi, anche poi soprattutto girando l'Italia, quindi incontrando le persone, confrontandoci con loro, condividendo quello che abbiamo fatto e quello che stiamo facendo, e soprattutto provando a coinvolgerli in questo progetto di coproduzione popolare, che poi di fatto permetterà al film di vedere la luce solo se le persone lo sosterranno. E ad oggi possiamo dire di essere sicuramente molto contenti della, tra virgolette, dell'accoglienza esperienza che abbiamo avuto, perché appunto in un paio di mesi abbiamo già superato oltre 250 coproduttori popolari. Continueremo a farlo. Per l'appunto il prossimo appuntamento sarà il 7 giugno, questo venerdì, al Circolo del Monco di Brescia, poi il 13 giugno ancora a Soino, il 4 luglio a Empoli. Insomma, ci sono varie date che stanno uscendo man mano, e continueremo anche a girare oltre l'estate e l'autunno fino appunto a quando sarà pronto il film. Speriamo insomma di riuscire a essere pronti per il prossimo inverno. Ci dai riferimenti web per saperne di più? Assolutamente sì. Allora, intanto vi invito ad andare sul sito ufficiale di Milky Way, che abbiamo lanciato da un paio di settimane, milkywaydoc.com. Potete trovare lì sopra insomma tutte le informazioni riguardanti al film, oltre i primi trailer, una gallery e soprattutto anche la pagina per continuare a sostenere la campagna di coproduzione popolare. Ma vi invito anche sicuramente a seguire la pagina Facebook di Milky Way, dove potete trovare, oltre ad aggiornamenti quotidiani sul nostro lavoro e su come procede il nostro lavoro, ma anche e soprattutto poi aggiornamenti quotidiani rispetto a quello che accade su quel confine e sui confini interni ed esterni alla Fortezza Europa. Ricordiamo allora la presentazione del progetto di film documentario The Milky Way, venerdì 7 giugno 2019 a Brescia al Circolo del Monco. Un saluto e un ringraziamento al regista Luigi D'Alife, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici e restate sintonizzati. Ciao! Con Luca Ragazzi e Gustav Hofer per presentare il loro film documentario Dictatorship, Fallo e Basta. Uscita evento al cinema il 10, 11 e 12 giugno 2019. Ben trovati. Ben trovato a te. Mi piace come pronunci il dictatorship. Devi far sentire quella K che fa la differenza, capito? Dictatorship, bisogna dire. Con la CK, con la K che fa la differenza. Lo presentate? Lo presentiamo, sì sì, noi compagnia di giro ormai è nel nostro DNA, ci diverte tanto, in cambio di un pasto caldo noi giriamo l'Italia, quindi saremo lunedì a Roma, poi prima Bologna, sì, in realtà lo presentiamo al Biografin di Bologna, esatto. La prima italiana sarà sabato al Cinema Giorgi di Bologna, siamo molto emozionati perché ci hanno detto che questo Biografin è un bellissimo festival e quindi ci fa molto piacere essere lì. Per chi ci ascolta, di cosa stiamo parlando? Di un film documentario che, come spesso nel nostro caso, questo ormai gloriosamente è il nostro quarto film lungometraggio e quando lo dico mi stupisco per primo, e anche in questo caso è una sorta di indagine in quest'Italia di questi giorni. Noi amiamo affrontare temi che ci stanno a cuore e che ci stanno succedendo veramente, quindi nel primo caso improvvisamente l'anno scorso era la questione sull'omofobia e sui diritti civili, poi con il 29 giorni era più il discorso sugli italiani che se ne andavano, i cervelli in fuga, what is left, anche se non ha visto nessuno, era una riflessione sulla crisi della sinistra, il San Dicetro, mi rendo conto che forse il motivo per cui non ha visto nessuno era proprio questo, e ora con Dictatorship cerchiamo di capire perché gli italiani in questi altri paesi sono maschilisti. Cioè, praticamente quello che succede nel film è che io scopro di stare con un maschilista e voglio che lentamente anche lui si renda conto, e lo porto così a incontrare diverse persone, sociologi, psicologi, scienziati, neuroscienziati, e lui l'unica cosa che mi propone è la Rocco Siffredi. E insomma, no, perché spesso accade che non ce ne rendiamo neanche conto quando noi stessi siamo maschilisti. E diciamo, non è un film di uomini che parlano di donne, ma vuole essere un film di uomini che parlano di altri uomini. E alla fine uno dovrebbe, o speriamo, scoprire che con dei piccoli cambiamenti alla fine siamo tutti meglio. Come era partito tutto? All'origine c'è un altro film, cioè ci hanno proposto di fare è stata la prima volta che qualcuno ci proponeva di fare un film, noi eravamo molto lusingati all'idea che qualcuno avesse pensato a noi, se non che la cosa che ci hanno proposto non era proprio il

secondo me è una grande vittoria, ma è soprattutto una grande vittoria di distribuirci un film da soli. Tra l'altro avete cominciato anche un bel rapporto con distribuzioni dal basso, OpenDDB, che ospiterà piano piano tutti i vostri lavori. Sì, sì, è una cosa strana, di fuori, non è che noi lo facciamo, non possiamo nemmeno essere ipocriti. Noi vorremmo essere distribuiti, però vorremmo essere distribuiti da un distributore che rispetti pienamente l'estetica, quella che è la nostra natura, perché con noi non si può discutere il manifesto, non si può discutere il trailer, non si può discutere la veste grafica, vogliamo decidere tutto noi, e se troviamo un distributore che ci lascia decidere a noi, noi ci facciamo anche distribuire, se non lo troviamo, se non siamo completamente liberi, e ci distribuiamo da soli. È un esperimento antropologico questa della distribuzione, è in assoluta indipendenza. Abbiamo anche polemizzato con attori e registi che difendono gli spazi occupati, che sono sacrosanti, dicendo: come fate voi a difendere gli spazi occupati e a disinteressarvi delle menti libere? Perché non si può difendere uno spazio occupato e non difendere una mente libera, che poi gli spazi occupati li fanno le menti libere, così apparentemente. E quindi cercavamo anche una tutela maggiore, non per noi, perché noi abbiamo una... Ma voi non potete capire quanti autori di grandissimo livello non vengono distribuiti perché vogliono essere liberi. E questo è un problema che la cultura, non solo italiana, la cultura mondiale deve porsi, perché senza le idee dirompenti poi non succede nulla. Il film è oltremodo comico, ci tengo a dirlo, ma veramente fino alle lacrime. Poi questo mio modo di fare le interviste spesso fa pensare che noi rappresentiamo dei drammi. No, noi rappresentiamo una comicità perversa e inguaribile. L'artista Antonio Rezza sul suo film Milano via Padova. All'Onda Rossa Festa, a Strike S.P.A., con proiezione e incontro con gli autori Antonio Rezza e Flavia Mastrella, sabato 15 giugno 2019. Andrea Paco Mariani di OpenDDB, distribuzioni dal basso, per parlare delle novità del mese, anche se con qualche giorno di ritardo. Paco, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti e tutti. Cosa si muove? Su Nella Galassia OpenDDB ci sono anche questo mese delle interessantissime novità che vi volevo sottoporre. Anzitutto continuano le acquisizioni sia di Silvano Agosti che di Antonio Rezza e Flavia Mastrella. Come sapete, insomma, da ormai diverso tempo stiamo facendo un graduale percorso di digitalizzazione e acquisizione di tutte le loro opere, e le stiamo trasformando di fatto in una sorta di teche digitali di questi autori. Per quanto riguarda Rezza Mastrella, abbiamo lanciato Photo Finish 2, che è una sorta di documentario backstage dello spettacolo Photo Finish, appunto, che è uno degli spettacoli teatrali più conosciuti e noti del panorama Rezza Mastrella. Ovviamente ha un taglio che rispecchia, diciamo, il loro linguaggio, il loro stile, quindi non si può neanche definire a tutti gli effetti un documentario di backstage, è qualcosa di diverso ed è qualcosa forse anche in più, se vogliamo. Però ecco, sicuramente entra nel vivo di quello che è uno degli spettacoli teatrali più noti e che hanno più circuitato in questi ultimi 10-15 anni. Ti interrompo un attimo per anticiparti che all'Onda Rossa Festa, sabato 15 giugno a Roma, allo Strike S.P.A., programmeremo e incontreremo Rezza e Mastrella con Milano via Padova. Che è diventato ormai, direi, un grande classico della loro produzione, anche perché non solo è l'ultimo in ordine temporale, nel senso che Milano via Padova è uscito tra 2016 e 2017, anche se fu girato anni prima a Milano, ma obiettivamente anche su OpenDDB è in assoluto il film loro che ha avuto più richieste. Questo secondo me è molto legato non tanto alla uscita temporale del film rispetto ad altre opere che sono invece più vecchie, diciamo, del loro catalogo, ma perché in un modo secondo me eccezionale, cioè con il loro stile, riescono a picconare tutta una serie di stereotipi legati al razzismo, che da un lato, non solo picconandoli nel modo in cui fanno loro, riescono a mettere a nudo anche la stupidità di una serie di atteggiamenti e di pratiche legate al razzismo di oggi, ma essendo un film in realtà che girarono, almeno le riprese furono nel 2011, se non sbaglio, è quasi diventato profetico, ecco, nel senso, vederlo oggi ci sembra quasi più banale, ma in realtà è uno di quei casi dove, quando si dice l'artista o comunque l'artista intellettuale anticipa i tempi, ecco, questo è uno di quei casi, quindi secondo me è stato molto bene a scegliere quest'opera. Poi la loro presenza in sala sicuramente è un in più molto importante, perché ti fanno anche tutto un approfondimento su perché hanno fatto quel tipo di scelta, anche perché in realtà loro arrivavano anche da altri spin-off di Troppolitani legati anche all'antipsichiatria, come per esempio Fuori Dove, che è un altro dei lavori che abbiamo in catalogo, per cui nel senso il format di Troppolitani inteso come approccio con la realtà e con la gente comune per strada poi si declina in tante forme, ecco, quindi direi che godetevelo, perché è sicuramente un film che merita di essere visto. Bene, allora stai cominciando con Silvano Agosti, continua pure. Allora, invece per quanto riguarda Silvano, anche qui abbiamo delle importanti novità, perché appunto stiamo continuamente, ma andrà avanti tutto il 2019 questa fase, acquisendo le opere di Silvano, tra queste sicuramente ne spiccano due su tutti, che sono Osho e La seconda ombra. Osho è un'intervista rarissima, e non vi devo spiegare perché è rarissima, al famoso Osho, di cui molti in realtà, se ci pensate, oggi lo conoscono per come si dice, il meme delle famose cose di Osho, ma in realtà è un personaggio che è esistito, è stato anche un personaggio molto controverso e poco conosciuto, e Silvano nel 72 andò in India a incontrarlo e tirò fuori questa intervista, che sta avendo anche molte richieste sulla piattaforma, perché evidentemente è una vicenda che molte persone sanno ma non sanno abbastanza. E l'altro invece vi citavo sempre di Silvano Agosti, La seconda ombra, qui è un film del 2000 e andiamo direttamente su tutto quello che riguarda il tema della psichiatria e anche ovviamente il ruolo di Basaglia, che ha avuto in Italia sia con la legge Basaglia ma anche con tutta un'altra serie di azioni che Franco Basaglia ha applicato negli anni, per cui insomma è un tema molto importante di cui per fortuna cominciamo a avere diverse opere in catalogo, il tema dell'antipsichiatria. E La seconda ombra è sicuramente un film molto potente che vi consiglio di vedere, è un film documentario, quindi non è un film di finzione, ed è traghettato in camera, quindi in presa diretta, da il grandissimo attore Remo Girone, quindi insomma è un film che consigliamo caldamente di vedere. Poi invece per quanto riguarda La galassia delle autrici e degli autori indipendenti ed emergenti, che rimane comunque il cuore del nostro ragionamento, vi segnalo sicuramente Shuluk, che è un film che di nuovo si concentra, come altri film in catalogo, soprattutto di autrici e autori emergenti, sulla vicenda delle migrazioni contemporanee, quindi racconta la storia di questi 3-4 personaggi all'interno del film e tutto il loro percorso di migrazione dall'Africa, passando per la Libia, arrivando poi in Grecia, arrivando poi in Italia e in Francia. La regista è una giovane regista emergente che già in questo suo primo lavoro dimostra di avere le idee molto chiare, e vi consigliamo di visionare anche questo lavoro. Ce n'è un altro che voglio segnalare con molto piacere, si chiama Rebelo, e che va ad arricchire la nostra sezione dedicata alle narrazioni femministe LGBTQ, che è una sezione che abbiamo aperto a pochi mesi, che ci tenevamo tantissimo ad avere in catalogo, e poi ovviamente dipende molto anche da quello che scopri, dalle relazioni che costruisci, quindi fino adesso non avevamo moltissimo materiale, e invece appunto questo Revelo è un lavoro veramente interessante, fatto molto bene, anche molto intimo, che racconta fondamentalmente la vita quotidiana di questi giorni e dei suoi processi come persona trans e della ricodificazione dei suoi codici binari, dei propri modelli, nel suo percorso anche in qualche maniera di trasformazione. È un film molto delicato che vi consiglio caldamente di vedere, anche perché abbiamo molto bisogno anche di questo tipo di narrazioni. Segnalo come ultima cosa, anche se non era inserita nella nostra ultima newsletter, ma ahimè è importante citarlo, vi ricordo anche che abbiamo un film ormai da quasi 2 mesi in catalogo, che si chiama Canapa Nostra, e che direi a questo punto quasi un po' profeticamente tocca tutto il tema che è esploso da pochi giorni rispetto alla sentenza della Cassazione sulla Cannabis Light, su tutto questo tema, chiaramente potremmo parlarne per ore, che da un punto di vista pratico, che da un punto di vista economico, che da un punto di vista politico, il tema dell'antiproibizionismo è un tema che ovviamente ci seguiamo in tanti da molto tempo. Chiaramente questa vicenda della Cassazione fa esplodere una contraddizione, perché in realtà la Cannabis Light poi ha aperto degli scenari completamente nuovi che stiamo ancora tutti ragionando probabilmente, ed è un film che in questi mesi ha avuto tantissime richieste, probabilmente perché si sente ancora un fortissimo bisogno e necessità di fare controinchiesta su queste tematiche, anche perché appunto non si può ridurre tutto questo tema a semplicemente l'uso ricreativo. Ci sono anche altri utilizzi, dall'utilizzo terapeutico all'essere alternativa ad ansiolitici chimici e farmaceutici e tutta una serie di cose, per cui insomma vi ricordo che abbiamo anche questo film perché che merita di essere visto, non solo perché fa chiarezza su una serie di cose, ma lo fa anche con molta professionalità dal punto di vista del documentarista. Paco, un abbraccio, ci lasci in chiusura i riferimenti internet. Certo, come sempre vi aspettiamo su tutti i vostri device su www.openidb.it. Ciao, a presto. A presto, ciao. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.